c'è nessuno, cambio. Ah, prego, prego. Domenico. Oh, Pacchetto, e allora? I vigneti che ci sono sempre, ascolta, ma d'occhio. Yeah. se ho influenzato, boh. Quello lì non va grassi né nulla. Pur stato fatto mano un misurate. E addirittura tanto bevi rurati che riesci a rubizzo grosso 3 centimetri. Quando mamma lo bolliva, perché lo bollivano quello lì proprio di mucca dato dal pastore, lo portava in boccioni grandi, non prendeva 2-3 litri mamma. E quando lo bolliva usciva un mezzo grosso 3 centimetri e gli suggeriva di andare a brutto. Ma siamo stati fatti mani un po' cose, è puro, ma quanto ne inventano coglionate. Bisogna vedere anche se è vero o no, perché il grasso animale è quello che fa più male, lo sai. Sei fatto la vada. Lo so. Dentro io c'è una collega che si fa portare latte di capra, un signore che abita vicino, c'è la campagna, e si fa portare 2 litri di latte di capra ogni giorno. Ma ha detto, già con quello lì faccio lo giudo, ma lo sai che non cresce in giusto. Pure io l'ho bevuto, ma quanto è buono, gatto. Latte di capra? Va. Rimane più grasso dell'altro come latte, però che fa lo yogurt, un bel buono. Ma soprattutto è sano, è puro. Ma dice che... Allora metti un macchinario, la Contessa Santa Maria che distribuisce il latte fresco di giornata. Puzzinoso. Puzzino? Ma lo vuoi grasso o magro? Com'è la testa di nessuno? Che regala. E anche adesso lo stanno facendo scuso, ma si può vedere la testa scuso? Ma non lo so. Perché? Mo, non lo so se fa altri passaggi o se glielo porta il pastore direttamente. Ma veramente la giornata buona, No, il pastore non lo porta quello, lo porta alla centrale del latte, sicuramente. Anche perché vorrà analizzare. Ma la centrale del latte la analizzava ogni giorno il latte. Non l'ho sentito. Ricotta. Ostia. Ma lo so io perché sennò mi sentono tutti. Che si può la raccolta. Cappa gamba. Comunque, sempre di magnati, scimo, Roba di magna. Se scimo sempre che ci capari, come vado per il fame. Niente, vado a morire di fame. Ma lo sai altro che al cimitero prima sono andato a fare delle visite ai parenti, là. C'è una che si chiama Anna Maria Franzoni. Vero, l'ho vista io l'occulo. Boh, sarà da molte anni morta. Sì, sì. A che piace la ricottella? Io già mi piace, c'è anche la formaggetta. Quindi con la ricotta e mezzo ti piace? No, quelli no. Quale ti piace a te? Quelli con il salamare? Formaggetta. Due strisce le sapete messe assieme. Stai andando a letto. Cosa? A letto stavi andando. Io? Sì. No? Io sono già a letto comunque. Sei già a letto? E poi si sa deve stare con me se grandi gatti. Io. E sono estremo, c'è un forzista, adesso con calcio un caldo. Ah, io sto anche bello sdraiato, che bello. Appagato. E comunque, piacciono tutti i dolcini. Cazzo, mi sei posato dal letto dei dolcini? No, perché stavo pensando alla domanda che mi hai fatto, se mi piaceva la ricotta. No, perché se ti piace quello con la ricotta. No. Ah! non ti ho detto sì. No, ma hai detto sì che mi piaccio. Formaggello. Ma vuoi parlare del formaggello adesso, eh? E stavamo parlando di cucina con Anto. Buono, sono buono. Ehi, sono buono. L'altro giorno mi hanno parlato dei dolci da Sosso, ma buoni, buoni, buoni, morbidi, morbidi, quelli amaretti. Invece non si limitano neanche a quello, cioè anche a minacce, spintone. rispettati perché ci avevano le videocamere di sorveglianza e gliele volevano togliere. Allucinante. Vabbè. Invece le stanno facendo tutto per farlo chiudere. C'è un interesse a farlo chiudere, boh. Dietro ci deve essere qualche cosa di politica, perché siete uomo in forza così, non è la prima volta neanche, eppure fare questi appuntamenti è un dispiglio di forza che io credo se farebbero bene usarlo peraltro. Se loro vogliono, e le faccio vedere io dove devono appostarsi la notte. Ma io, a prescindere dal fatto, per pa, dico una cosa, se uno non fa niente di male, libero di... gli hanno dato un'autorizzazione dall'alto, libero di fare ciò che le pare. Ha un'autorizzazione da mostrare, dice che vanno sempre a chiedere autorizzazione anche sapendo che ce l'ha. Ma a prescindere da tutto che consiglio di Stato gli ha dato ragione, come può essere anche intorto, comunque uno gli manda il controllo, passa la pattuglia, gli fa la contravenzione e tutto è risolto. Non penso che ci si debba concentrare un'interforza così grande per contravenzionare uno, quando invece tu sai benissimo che cosa succede una certa parte di Sassari tutta la notte. Gli appostamenti preferibilmente farebbero lì anche le casse del comune. Purtroppo vanno dove li mandano. Magari il comandante è contrario che loro aprano la notte, probabilmente è contrario, appoggia il sita. Io sono d'accordo con te, già che ti do ragione, però ci sono anche una serie di esposti fatti, perché c'è quello che succede lì nel piazzale, ma una serie di esposti che non è uno, due, tre, no, sono migliaia di esposti, eppure così continua e non fanno niente per farlo cessare. Beh, te la do io la risposta. Ti ho mandato io, Pierpa. Ti ho mandato tu? No, sto scherzando. È sempre una cosa che anche mandandole non è che... ne mandi sempre una, non così tanto. Ah, sto scherzando, ho mandato io. Comunque so già che lui è in battaglia da un bel tempo, da quando la figlia veniva a casa e cosa. E ci diceva sempre che erano sempre in battaglia perché gli mandano le pattuglie, multe su multe, multe non pagate perché loro avevano l'autorizzazione, facevano multe senza motivo. Adesso per esempio il servizio che fanno l'altra estate, che dovrebbe essere socialmente utile per tutte le cose, invece dovrebbero esserci fino, dovrebbero fare il notturno, almeno due pattuglie di turno, invece le due pattuglie sono impegnate, l'estate sono state contravvenzione della musica alta. Lo sì, è vero. Ah, boh. Capisco manco perché solitamente in una città chi comanda è il sindaco, e se dobbiamo vedere, a parte il fatto dei tanti vigili che controllano, una città è il sindaco che dovrebbe comandare, non ci dovrebbe essere altre autorità che per il sindaco, vabbè, il questore e la prefettura là. No. Il più alto in carica è un comune, comunque addirittura nella provincia, il prefetto. E infatti l'ho detto, la prefettura è il questore. Addirittura il prefetto può togliere anche il mandato per grave incongruenza, può toglierlo anche al sindaco. Certo. Comunque le cariche sono quelle lì, prefetto, questore e sindaco. Infatti se già lo sai, c'ha gli anni che c'hai, lo sai sicuramente che quando giura, quando viene eletto, le schede del sindaco vengono portate in prefettura, vengono controllate lì e poi il prefetto dichiara che cosa? Ah, quando votano Cina, cosa dice? Anche tutte le altre le dichiara sempre il prefetto delle, di ogni provincia, le dichiara sempre valevoli la prefettura, no? Il prefetto le convalida, come con tutte le schede elettorali di qualsiasi cosa, ma anche quelle del sindaco vengono convalidate dalla prefettura. E chi lo dichiara che, come si dice, che è lui operativo, il sindaco, lo fa il prefetto, una volta il prefetto giura, no? Ma le schede elettorali, ti correggo qua, perché io ho fatto lo scrutatore, le ho portate in comune, i plichi li abbiamo portati tutti in comune. Ecco, non fu comune, vanno in prefettura, l'ultima comune era la prefettura. Questo non lo so, però noi l'abbiamo portati in comune, ce l'hanno fatti caricare e portare in comune. Sì, sì, sì, hai ragione, vengono prima, la prima vengono scrutinate sul posto, poi vengono portate in comune, lì vengono di nuovo controllate dal colore comune, e c'è la presenza di un ufficiale della Guardia di Finanza e via dicendo. Poi vengono portate in prefettura perché era l'ultima a convalidarle per regione la prefettura. La paga, questo non lo sapevo, pensavo che si fermasse lui i clicchi. Anche quello l'ho fatto, ma la fortuna mia è che mi hanno malato a carica. È noto anche nell'ultima elezione che adesso totalmente anche vengono, come si chiama, quando fanno quei sondaggi e cose, sono le prefetture a dare le notizie appunto perché adesso c'è anche un diverso passaggio nelle schede elettorali. Vai avanti tu. Chiappa. Era così, no? No, non lo sapevo neanche che voleva fatto così. Io ho fatto lo scrutatore. Ho avuto la fortuna che mi hanno mandato a carica. Invece di mandarmi qua a Sassa e mettere tutta a carica, io allora non c'avevo macchina. Ma due anni fa è successo. Io la macchina ce l'ho da quando avevo 19 anni. Avevo 18 anni praticamente. Che erano proprio denti di una ruta. Sembra così, è vero. Ma si parla di un bel di anni fa. Che porta arriva? Lui da già va a 60 anni, per fa. Vabbè, ma tu le dà la scuola, sempre, tu dici sempre nel 50 o nel 60. No, io nel 51, non nascondo nulla. Vabbè, adesso che non te lo pare abbastanza, basta così per stasera, la prossima puntata è rompere le palle a domani. Non ci ha rotto le balle per niente, che problema, se vuoi restare, resta tranquillamente. No, no, che ce la fai, dai. Riprendetevela, ecco la buonanotte, ce la sentiamo domani, dai. Migliaia per qua, ci sentiamo allora. Stanotte è perfetto. Ah, tu? Stanotte è perfetto. Che cosa? Pure io ti sento perfettamente, proprio. Devi girare. Però tra noi due ho sentito un'altra voce, avanti chi vuole entrare. Ho sbagliato io. Sarà tutta la gamba. Quanto? Era una voce che superava anche la tua. Era leggera. Ho capito cosa sei tu. Cosa ne so. Vabbè, comunque ci siamo usciti dal pane. È una grande successo che l'hanno tutto spinto avanti. Tradini in giornale, vero? Però io ho pensato di uno che vuole lavorare così, perché tu devi andare a rompere le palle? A di là di tutto. Cioè, lascia stare. Cioè, allora il locale, alcuni bar che restano aperti di notte, cioè, quello lì lo può fare, ma quello non lo può fare pure questo. Cioè, non è che stia prendendo i clienti a nessuno, si sta facendo il suo, perché anche può capitare una famiglia che ha il bambino gli manchi il latte, gli manchi qualcosa, cioè vai lì e sai che non puoi prendere. Può capitare, cioè questa cosa uno non le lascia né tranquillo a lavorare, non è che lo stanno facendo neanche tutto, c'è solo lui, cioè. Ma bene. Ma sai che a me Antonio ci fanno un baffo i meccanici della Ferrari. Ma cosa? Stamattina abbiamo sostituito lo sportello al volo, lo sportello del motocarro, in 2 minuti io non lo chiamo. E perché cos'è successo? Ah, c'è la frana con il lavare in terra. Allora l'abbiamo sostituito. 2 minuti d'orologio per sostituire lo sportello. Bravi, bravi. E dove l'avete beccato lo sportello, se lo dico? A un orologio. E c'era lo stesso colore? Ho capito, ma qui era lo stesso colore. Ah, pure 10 anni. No, diciamo che adesso ho dato così una mano, tanto a farlo presentabile, ma poi devo cominciare tutta la moto. Cappaga, l'ho compreso. Io ho grido. Sì, buona Pinzello, andava. No, ma infatti l'ha giocata Pinzello, casina, ma tanto per renderlo, perché siccome aveva qua, si presentava un pochettino di luce, allora gli ho passato la cartometrata, l'ho portato alla via di nulla e poi gli ho dato un po' di luce per renderlo presentabile. Poi la settimana prossima inizia a pensare, a stuccare, e poi gli do la mano in fondo e poi all'ultimo l'ho avvicinato. Po' brugaro, sì. Guarda, quello che ha straordinario, siamo entrati in via Milano, per via lo sportello, avevamo cavato lo sportello vecchio e piazzato lo sportello nuovo in 2 minuti. E meno male ce l'aveva il ferrovie. Meno male l'abbiamo trovato, già cazzo ci voleva, guarda, quello sportello che da parte mia era un altro, poi era tutto schifo, entrava, non si leva bene, entrava un'aria, ti tagliava in due, pariva una lama, doppio coltello. E adesso per la serratura tutta le lame. No, la serratura tanto non chiudeva l'altra, non abbiamo mai chiuso il quel motocarro, non chiudiamo mai. Ti va bene così, dai. No, va bene così la serratura anche se non funziona. Intanto c'è un dormeletto. Infatti. L'importante è che gli spifferi siano finiti e poi che il vetro possa salire e scendere, non conferma con un pezzo di legno. Almeno quello funziona. Sì, adesso funziona tutta la grande. No, ma a me è importante che chiuda bene il finestrino e poi che lo sportello, che adesso è bello aderente alla guarnizione, non c'è, c'è dalla parte della parte, c'era uno spicco, mi si chiama il tuo fronte. Specesso che c'è freddo. Ehi, buia, la mattina mi sono deciso, ho detto, beh, siccome abbiamo avuto un ritaglio di tempo sufficiente, abbiamo avuto quel quarto d'ora di buco, ha detto, aiuto, qui lo sportello, qui al volo, fu 2 minuti in caso di attacco. Magari era più nuovo che su chi aveva quello vecchio che chi. Era più nuovo che su chi aveva quello vecchio che chi si aveva attaccato alla mano. L'ultimo gli è stato fatale, poverino, perché quella tronca me l'ha agganciato, l'altro me l'ha tracciato. E vabbè. E Panda non l'hai visto? Adesso me lo vai, è oggi, cazzo, mi ha dato un messo a smontello, oggi è finita l'aria. Manco vari, allora manco una cosa. Da, almeno quella. Ah, soprattutto funziona bene anche, chi toccava fare delle vulche a Sarrallo era uno ed era diventato un terrallotto. Perché la scangherà? Se ti sto dicendo, l'era preso una, con una, quella cazzo era una Ego, la pila l'ha calcato con lo specchietto e me ne ha tracciato. No, già C1 era. La cazzuera che c'è la macchina, la stronza, ma poi dice che la colpa è No, diciamo che ha fatto una cazzata, il mio principale gli ha fatto lui a lei. Ma? Io mi volevo opporre, invece le ho detto che andava bene così, là, si è sciolto perché era una bella ragazza. Viene fucilato, che? Le l'ha fatta in barba, va. Gliela ho voluto fare, io non l'avrei fatto e altro mi sarei fatto anche pagare. Invece lui ha preferito fare così. Pagherà o meno? Penso per lui. Io le ho detto, tu ti puoi augurare che non mi ha preso le gambe, se non avevo via due occhi aveva ballato e commenti. Beh, era una bella gnocchetta. No, a lui comunque è arrivato a tenere il tempo, se no per me sono arrivato i vigili urbani, non mi sarebbe interessato niente. Per me l'avrei risolta diversamente. Lui invece ha detto, sono stati visti, ma non le faccio la situazione io. Ecco, via, a me non me la fatti nulla. Però così non va bene, cazzo, se non c'è la colpa cosa? A parte che tu fammi quella, se la metti l'assicurazione che tu hai ragione e se baghi in diracra, risulta truffa, lo sai. In quel momento non sai cosa è lui, perché non aveva ancora fatto la revisione. Ecco, si era l'inghippo. Praticamente gliela fatta per quello, ma io ho detto non c'è problema. Pagherà anche quelle l'assicurazione, perché la sua di assicurazione, perché quando fa la controversia dei 400 euro, includiamo anche quella. No, per far, se non ha fatto la revisione, la moto può circolare, non ti paga niente. A me se mi aveva fatto male mi paga qualsiasi caso. Beh, tu prendendo la moto senza revisione, stai già sbagliando, poi sei già in torto, perché se non c'è revisione non la puoi guidare. Ma la moto non era in circolazione, diciamo, era ferma. Ah, se la ferma la tocco. Se ti dico una cosa, niente la controversione, perché la moto non stava circolando, era ferma. Se la ferma, te la raggiù. Non stavo camminando, ma era ferma, la moto era praticamente parcheggiata. Io ero dentro la moto, sono sceso la moto e mi sono fermato vicino allo sportello, che io avevo mezzo socchiuso. L'ho visto arrivare, mi sono buttato dentro come l'ho visto arrivare e per poco, perché se non mi buttavo dentro mi prendevo le gambe. Comunque il mezzo era fermo, non era in circolazione. Ah no, io pensavo di sì. Casino. Comunque io so di un amico che praticamente aveva fatto la revisione e la circolazione non l'ha pagata. No, a me Antonio gli ha fatto pagato come a te, ce l'ha volta prima. Oh. Sì, i danni fisici parlano. Non parlano al mezzo, ma i danni fisici sì. Per la sedizia fa via la revisione. No, c'è fatta, era quel giorno lì, era che non era ancora stato fatto. E dove l'ha fatta la revisione, aspetta? Allora ti dico una cosa, l'ultima volta è stata fatta la motorizzazione, ma somiglia alla motorizzazione che è dall'altra parte. Va bene. Non la guardano nemmeno. Investigante, mamma mia, motorizzazione, ha detto è andato pure una freccia attaccata, e l'ha detto io sento la freccia, si va bene, la figlia della porta non ti va via. Ma lo sai che c'è? Lui esce dalla motorizzazione, non rifunziona la freccia, e vedono che appena ha fatto la revisione, passano i casini, gli si dice, mi sta rimandando fuori la gran freccia passata. Infatti loro saranno, ormai ci devono rimetterla comunque. Io ho avvisato anche la macchina, c'era una freccia, quel cazzo non funzionava, gli hanno detto di mettersi una parte e cambiare la lampadina. E la facevo qui, si è andato, l'ho cambiato, non va bene, no, va bene, e poi il motore se n'è andato. Ma come sono? Non lo so, è rimasto a ricontrollare il numero. assai aiuto. Però lo sai cosa controllano lì di là quando verranno in mare? Ma fatto per dire no, che dice che sono molto servire, invece possono più me ne freghisti degli altri esterni. Almeno gli esterni possono fare me ne freghisti perché esce tutto quanto a controllare per dire la debussi di scarico. Deve andare a passare. L'SMS per fargli capire che l'ha fatto. Ma c'è lo scamotaggio anche lì, ci sono un sacco di truffe. Beh, la motorizzazione non attenti a prendere i soldi che gli danno, le bustarelle. Ma cioè, non sto scherzando, è proprio la motorizzazione che non ti... Non, per esempio, se tu vai privato, devi mettere la macchina sul collo, ti conto, anzi c'è il controllo che fai, se no non ti esce la scheda. Allora, se non i fari non sono giusti, se lo scarico non funziona, muove molto, tu la lasci la macchina, accelerano finché fanno scaricare tutto il CO2 e cioè fino ad arrivare al grado giusto e poi lì inserisce il dato e glielo dà subito. E sì, anche con me l'ho fatto così. Perché innanzitutto la macchina muove bella calda, perché se tu la lasci raffreddare la metti molto al momento, che tu la metti in moto è il momento che c'è più CO2 negativo e allora devi lasciare la macchina in moto anche accelerando forte per far andare via il CO2. Appaga, facciamo un sosso, l'ho già fatto le divisioni, lo feci sempre in vano. E lo fanno, perché lo fanno tutti, se no no, invece la motorizzazione che sotto le controllo è brutto, lo sai. A me la motorizzazione mi hanno fatto mettere anche i circuiti, mi hanno controllato le ammortizzature. Guarda, ti sto dicendo, la moto l'abbiamo portata un sacchissimo di volte, poi ho portato anche la macchina. Mai abbiamo fatto un controllo niente, mai niente sui rulli. Ci sono gli appositi, c'è scritto lavaggio gratis, eccetera, eccetera. Fanno mettere la macchina su questi rulli e poi tutta la macchina. Ma è visto a fare quello del genere? Un po' li ho visti sui mezzi pesanti che fare quella cosa, però sulle macchine, Siamo fin da tu lì, c'ha anche tutti il controllo, la voce. Vabbè, dai, si chiamava a continuare, se no non gliela faccio, là. Ci riascoltiamo al prossimo, ciao, ciao. Sono qua. Vedi? E io? Ma sono qua. Cappa. Yeah. Io fra poco devo fare la revisione. Dove la porti? Qua open. Lì te la fai. Tanto paghi sempre la stessa cifra. E io lo so. Fanno un bel controllo accurato. Sì, uguale come tutti gli altri posti. 64 euro mi pare che paghi. No. La revisione? Sì, è aumentato la resa. 7 euro. Cosa? 7 euro. Che euro? 70, cioè non 7. 70 euro? E per fare la revisione, sì. Finché io so che è una 60 di euro. 70. Ciao, domani te lo faccio sapere con chiarezza. Guarda che non è così. Mi voglio sbagliare, ma mi sembra che 60 è qualcosa, non 70. Già, io domani chiedo, perché se ti fate di pagare così ti do puttente. 70 ho pagato. Ciao. No, guarda che non è così. Io domani chiedo. Ok. Se ti stanno facendo pagare lui ci sono puttente. Che sono del cielo, sarebbe buono so. Davvero? Meno che non ci fanno pagare il fastidio. Paga. c'è due mesi. Stamattina abbiamo visto Romero, ci hanno cuccato bene. Io ti ho visto, sì. Adesso la febbre. Mozzo. No, a piedi ero già. No. Troppo freddo, cacchio. Troppo freddo. Sono andato per quella 39. Buonasera. Ciao, e tu? Io non ho freddo qua. Io mi ascolto perché ho le mani, guarda, io non ho mai avuto mai ghiacciato in vita mia, mai. Ma non è che tocco la neve, tocco l'acqua fredda, è così, ho le mani ghiacciate, le ghiacciate. No, io non lo so. Scappa. Oh, via. Comunque già domani te lo faccio sapere a vedere quanto è. Ehi. Ma non mi sento male, già, ma neanche io non so, io... c'è un forno in un letto, ma quello non c'è problema. Perché mi sento male, purtroppo, sono anche a bivini di freddo. Mannaggia, ma... non so una cosa, sola che cosa, già. Le gambe mi facevano male, perché l'ha fatto anche l'altra volta. E questo dolore alle gambe, no? Tipo, non ti posso dire, non dolore. E vabbè, c'è un dolore avanti, però non forte. E quindi sono accorto un po'. Poi sono stato al bar stamattina, perché lì tira un'aria allucinante, un freddo, mamma mia, ma sono attaccato, arrivo qua, mi metto questo freddo, infatti mi sono curicato, poi mi sono preso, volevo fare 5, una tachipirinia, adesso vediamo un po', ma stavo tornando a non prendere la luna, perché il mio tono mi sembra già vero, scusa, c'è qualcosa? Antibiotico. Tachipirinia. Ah, capito, sì. Ti metti con i 12 ore. Allora mi sa che devo prendere la luna stanotte. Ma un attimino che mi dice la febbre, dai. 2 secondi, ho detto. Break, no? Ma va? Ho accettato un break. Mio Gino, sei tu? Ciao, buonasera. Buonasera, circolare la ruota. Sandro, Porto Torres. Ciao Sandro, mi sentite con chiarezza anche a te. Anni, vai avanti. È ok. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ok. Niente, già, se mi puoi dare un controllo che avevo l'alimentatore in tilt per vedere se sta andando tutto ok. Qua se non v'è 5 la radio è 5 a bocca, va benissimo. Ok, che c'era? Voi Antonio Bombo e Luca. Qua fa un passaggio, ciao Sanno, fa un passaggio. Ok, ciao Luca. Buonasera anche a te, ho sentito che si indolenzito. Ma un po' tutti, Sto soffrendo, un po' tutti. Sì, se lo so che non ha freddo, allora, segnale tuo, 9:10 e radio 5, perfetta. Va benissimo, ultima. Qua c'è Santiago 8, Radio 5. Ma stiamo trovando la Sassari. Cappa, buonasera l'amico. Porto Torres. Ma Porto Torres, sì. Come arrivo in quella zona io? Come? Come arrivo io in quella zona, a Porto Torres? Ma ti ascolto. Ti ascolto, segnale, insomma, ti direi una bugia perché ho un Midland, quindi ho come sweater il tempo che trovi. Comunque è una radio di 4, comprensibilissima. Gappa. Va bene, dai. Io sono il più basso, hai capito? Per quello che te l'ho chiesto. Avanti già. Io so come ci stavi fanno. Va bene. Sì, no, mi arrivate tutti benissimo. Gianni, Santiago 9, almeno lo smetta, radio di 5. Una radio, adesso non so se è il tuo modo di modulazione. Magari non so se la puoi un po' sollevare, comunque è comprensibilissima. Kappa, sono io che sto parlando a voce bassa perché ho paura di disturbare quelli che sono a fianco. Ho capito. Va bene signori, dai, vi lascio ti lascio, che era giusto per rendermi conto se era tutto ok. Super salutori e buon queste ore prossime. Ciao Sandro, ci sentiamo, vai. Avanti. Ciao Sandro, è tu, ciao. Ma salutone anche da parte mia, Sandro, Ci sentiamo alle prossimine. Pagava. Arrivo pure io lì, dai. Luca. Grazie, Sandro. Ah, sì, già. Ripetita, la ripetita. Adesso me ne sto controllando una chat già che c'è una guerra di karaoke, perché qualcuno non fa le palle. Sto dando una mano, ti ascolto, vai, se caso già mi rilanciate, ma la cosiddetta voce qua, aspetta. E io ho sorpreso. Gappa. Cioè, faccio un bel di stanchezza, così. Il venerdì è terribile. È normale. Ti hai accumulato tutto quello che hai fatto durante la settimana. Beh, tu lo vuoi anche sabato mattina, no? Sì. E poi mi dici tutti dal culo. Sì, da lui. Su apprendito la sera. Ma è gente che non è travagliata, si dica, se non è travagliata la sera. Ma. E quando esce la bomba a quarto piano non è borsa il signore. Paga. Il rivenditore, quando c'è quarto piano a piedi, non arrega. E tu cosa vuoi aprire di sé? Ah, beh, non è aprire di sé. Accanto non travaglia mai. La sera di agire di capo di sabato sera, e non ti dà una minuta. Ragazzo, io me ne stavo tutta drogata, mi sto addormentando in piedi. Sono tutti, vi auguro buonanotte e buon risveglio per domani. Ciao. Vabbè, quella è una bugia che c'è bloccato. E vabbè, mi sdraio, nel senso mi lascio andare. Sto addormentando sdraiato, dai. Ciao, buonanotte! Ciao Lu, se ci sei nascosto. Ciao Gappa. Ciao, buonanotte.